E buonasera a tutti e bentornati a Etno Chic qui su Radio Città del Capo 94.7 e 96.250. Sono le 21.35 minuti primi e siamo in diretta anche questa sera. Non so se avete riconosciuto lo stile di questa musica. Sì, credo proprio di no. Di no. Ma in realtà qualcuno a Capo Verde ci sarà anche stato. Sì, e si spera che abbia ascoltato, non certo questo violinista che si chiamava Travadigna, perché lui è morto nel 1987, quindi sono passati poco più di 30 anni. E appunto argomento di questa serata sarà alcuni ascolti, alcune suggestioni dall'arcipelago di isole che è Capo Verde, al largo delle coste del Senegal, questa ex colonia portoghese che è indipendente dal 1975, e di cui cercheremo di ascoltare alcuni spunti di alcuni dei generi musicali più diffusi nell'isola, che esprime una grande ricchezza musicale. E appunto siamo partiti con questo musicista, violinista scomparso prematuramente nel 1987, che si faceva chiamare Travadigna, originario di un'isola che è l'isola di São Vicente, e che aveva uno stile che combinava un po' diversi stili che mischiavano qualcosa preso dal Portogallo, qualcosa di locale, qualcosa anche dalla musica brasiliana come lo choro, e con una gran capacità di improvvisare su questi stili. Come nel caso di Cesária Évora, che sentiremo verso la fine di questa puntata, il suo successo è arrivato molto tardi, agli inizi degli anni 80, con alcuni concerti e un paio di registrazioni appunto a Lisbona in Portogallo, che poi sono tra le poche registrazioni che abbiamo, insomma, e quelle che ascolteremo adesso, tra cui anche il prossimo brano, sono appunto tratte da questo disco che si chiama Le Violon de Cap Verde, uscito, è l'edizione francese di un disco poi in realtà registrato appunto in Portogallo. E adesso andiamo ad ascoltare sempre questo disco, quello che poi è il primo brano, che è questa Sarapigliera. Thank you. E vi ricordiamo anche il numero della diretta qui a Radio Città del Capo Etno Chic con Babe e Vladimir, fra poco ci raggiungerà Azul. Allora 348-7649-289 se volete mandarci i vostri messaggi. Ascoltando questo violino mi veniva in mente dei commenti che sentivo poco fa su un'altra radio, una nostra concorrente, a proposito dei concorsi di quartetti per archi di musica classica. E c'era uno dei presidenti della giuria di questi quartetti che diceva che ormai il livello tecnico dei partecipanti a questi concorsi è talmente elevato che tendono ormai a premiare quelli che hanno qualcosa da dire. Beh, questo violino magari non è così tecnico, ma sicuramente ha tanto da dire, o aveva tanto da dire. Sì, perché infatti è proprio la sua grande esperienza che faceva sì che lui avesse anche una grande capacità di, appunto, di improvvisare, insomma, su questi dilemmi, su questi schemi, insomma, di queste musiche tradizionali che poi andremo a vedere più o meno quali siamo, di cui poi il più conosciuto è questo stile lirico strofico che è la morna, che è molto conosciuta perché non solo attraverso Severia Evora, che è stato un po' la sua, come dire, portabandiera, come si dice? Nume tutelare. Il suo nume tutelare, insomma, nel per mondo, fare i colti. Al di fuori di Capoverde, ma addirittura è stata paragonata in certi versi a delle caratteristiche analoghe al fado portoghese, e fra l'altro poi pare che anche Capossela ha fatto un brano che si chiama Morna, ispirandosi sempre a queste tradizioni. Ok, dopo lo chiamiamo, magari glielo chiediamo. Magari glielo chiediamo, sì, un altro momento. E comunque andiamo ancora con un altro brano di Stravadigna, questa stancia. Thank you. E con questo ultimo brano che abbiamo sentito del violinista Travadigna ci addentriamo più dentro al mondo della musica capoverdiana con degli approfondimenti. E praticamente abbiamo visto come la musica capoverdiana è molto importante nel quotidiano anche dei capoverdiani, sia residenti all'estero, sia emigrati, sia quelli che stanno sull'isola. E soprattutto leggevamo su questo disco, su questo libretto di questo bellissimo disco, di questa serie che si chiama Viagem dos Sons, cioè il viaggio dei suoni, che è una serie di musiche appunto che documentano le tradizioni musicali dei paesi di lingua portoghese, che è stato realizzato nel 1998 nel corso in occasione dell'Expo di Lisbona, ed è una serie di vari dischi prodotti da questa piccola casa discografica molto attenta alle tradizioni sia del Portogallo sia dei paesi di lingua portoghese, che si chiama Tradisom. E questo disco in particolare, da cui prenderemo vari esempi, anche quello che vi andremo a leggere, si chiama Des Granzin di Terra, che non è proprio portoghese, che è proprio la lingua creola che si parla, che è molto vicino al portoghese, ma è la lingua che si parla appunto a Capo Verde. E appunto dice come anche non è solo la musica un'attività di divertimento del quotidiano, ma anche poi una grossa entratura economica per lo Stato capoverdiano, che appunto non sarà come la Giamaica, però ha una produzione discografica di concerti, insomma la musica è sicuramente una di quelle cose che attira anche il turismo e le risorse culturali. Una musica che vede vari generi musicali piuttosto diffusi, tra cui quelli più conosciuti sono la morna, la caladeira, il batucca e la funanà. Quando troviamo nelle situazioni tradizionali questo tipo di musica? Le solite occasioni, i bailes, le feste religiose profane, le situazioni di lavoro, i concerti, i rituali, ma soprattutto una cosa che è molto particolare della musica capoverde è che sono le notes capoverdianas, ovvero sia delle vere e proprie feste che si possono svolgere anche nelle case, se non nei bar, nelle piazze, nelle strade, che durano tutta la notte con l'invito di musicisti che ricevono anche una specie di rimborso, e sono delle feste dove di solito c'è sempre un servizio bar, insomma si beve, che durano per molto tempo, e sono delle cose che non sono dei momenti festivi che per forza devono essere legati a qualche occasione, un anniversario, una festa, ma possono essere semplicemente così, un'occasione, una scusa per fare festa. E il primo brano che vi sentiamo è proprio una coladeira, che è un tipo di canzone che si rifà a delle storie che si raccontano in queste notte capoverdiana a questo punto. E questa si chiama proprio cornologia, perché è una storia appunto ironica su storie d'amore finite male, e andiamo a ascoltarla in questa versione. Sono registrazioni appunto degli anni 90, ricordiamo. Thank you. Ed eccoci qua, è arrivata anche Azul nel frattempo. Ciao, buonasera. Comunque vi sentivo mentre camminavo di corsa per arrivare. Perché sei arrivata dritta dritta dal lavoro. Sì, sì, dritta dritta dal lavoro. Questo è eroismo. Davvero, ragazzi. Io vi pensavo mentre lavoravo. E che ne dicevi di queste musiche capoverdiane? Io non è che ne conoscessi tante, a parte Cesare Evora. Sì, a parte lei, anche io ne conosco tanta e mi ha colpito molto il violino che ho sentito te che ha parlato prima, che cioè sembravano proprio delle... la melodia, cioè sembrava proprio che fosse una voce quello violino, cioè dava proprio una particolarità, cioè sembrava come se cantassi il violino. Eh sì, perché molto spesso poi queste musiche alla fine poi hanno magari dei testi, infatti... Alla fine molto spesso la musica strumentale e la musica vocale hanno le stesse musiche, ma manca solo in una, manca il testo, nell'altra un po' lo strumento che fa quasi un po' a richiamo della voce, insomma. Sì. A volte la voce che fa da il strumento, chiamo, sì. Come in tutti i frutti di Elvis, esatto. Che non voleva dire niente. Proprio così. E avevamo parlato di Morna, e questa Mili è proprio una delle Morne classiche più conosciute dai cantori capoverdiani, sentiremo poi una più avanti. I temi sono simili, come abbiamo visto, un po' in qualche modo al fado, insomma, la sodagi, la separazione, l'amore, la solitudine, insomma. Ecco, effettivamente anche questo è utilizzato, comunque anche questo, anche nelle notti capoverdiane, oppure semplicemente per delle serenate. E quindi andiamo a sentirci questa Morna, sempre da queste registrazioni degli anni 90. Na bobeira. questa morna, abbiamo sentito questa morna, adesso da un po' quello che è la forma musicale più, genere musicale più tipico di Capoverde, più conosciuta, andiamo, facciamo di nuovo ritorno in Europa e al violino con una mazurka che si chiama Record d'Assaut. E la mazurka è curiosa, sempre da questo librettino interessante, è curioso vedere che è caratteristica praticamente di un'isola che si chiama Saint-Antoine, e dove è rimasta una tradizione di mazurka molto forte, di cui questo Noxic, che è quando è stato registrato questa versione di questa mazurka, aveva già 80 anni, un po', era un po' un riferimento importante, aveva un repertorio di musiche europee, tra cui anche la contradanza, i vals. E andiamo a sentire questa Record d'Assaut. Thank you. Che ci fa una mazurka in mezzo all'Oceano Atlantico? Perché ci sono alcune musiche che alla fine, come puoi pensare, il jazz o il blues nel secolo che abbiamo appena lasciato, poi vanno un po' in tutto il mondo, e la mazurka ha rappresentato una di queste punte danze, come il valse, insomma, che hanno superato i confini delle loro terre natie per arrivare un po' ovunque, essere un po' reinterpretate secondo gli stili locali, insomma. Una musica creola, non solo la lingua. Eh sì. E poi c'erano invece degli stili proprio più locali, come anche il prossimo brano che ascoltiamo, è una versione un po' moderna, perché originariamente sarebbe una musica rurale che racconta un po' anche nei testi la vita delle campagne, insomma, dell'isola di Santiago, e che questa Funanà, che di questo gruppo che si chiama Fundo Basso, è proprio una registrazione di un disco. Questo non è una registrazione sul campo, ed è un disco del 1997 che si chiama Ferrugaita. E appunto originariamente veniva suonato con la gaita concertina, invece qui vediamo che ci sono altri strumenti, c'è il basso elettrico, insomma, è un pochino più moderna, e quindi andiamo a sentirla. quanto abbasso, poniamo una che sa da mantiene di ospaggiudamo, ma canto un tacito mantiene l'agua non voce, e mi canta ogni lopi di un stare giunta valenaggia. Soraria dam, soraria dam, soraria dam, soraria dam, ma subi riva la sciro mangio di la quanto abbasso, poniamo una che sa da mantiene di ospaggiudamo, ma canto un tacito mantiene l'agua non voce. Mi canto ogni lopi di un stare giunta balenata. Soraria dam, soraria dam, soraria dam, pamba fonti la vatavo. Soraria dam, pamba brinca curondam. Soraria dam, pamba vatar in cacciopo. Soraria dam, pamba rubera in cana. Soraria dam, fosse lembra campo di nevo. Soraria dam, soraria dam, soraria dam. E sono le 22:11 e siamo qui il 31 gennaio su Radio Città del Capo 94.7 96.250. Una perfetta puntata balneare. Sì. Ci sta proprio con il clima di questi giorni, sì, bolognese. Anche se dicevamo, sì, che a Capoverde non, poi non fa poi così tanto caldo, insomma, come si poter. Ma non fa mai immaginare. Freddo. Mai freddo, quindi diciamo una temperatura ideale. Una cosa di questa musica che mi ha ricordato molto il frevo pernambucano, in cui parliamo di Brasile. C'è lo stesso ritmo, me stesso, però visto che non c'è una influenza di questa musica col frevo brasiliano, perché lì parliamo più una cosa in relazione alla capoeira, al ritmo della musica, per dare un ritmo durante il carnevale. C'è una lunga storia per stare a spiegare, però il ritmo ricorda molto questo frevo brasiliano, questa agitazione, questa cosa che ti metti dentro, la voglia di muoverti. Eh sì, e forse poi parleremo anche presto del carnevale, e a memoria di studi vecchi, di cose che avevo letto sulla rivista Il Cantastorie, mi pare che appunto ci sia una tradizione importante di carnevale o di cose di questo tipo anche a Capoverde. Sì. Non a caso, insomma, a volte poi ci sono state anche degli scambi culturali, perché appunto la tradizione del carnevale Capoverde, se non ricordo male, è piuttosto importante. E quindi sì, a volte insomma ci sono poi queste cose che si ritrovano anche da un oceano, da una parte all'altra dell'oceano. Ah, ma tanto era sulle rotte degli schiavi e commerciali, giusto tra Portogallo e Brasile. Sì, sì, esatto, lì. Era il porto di stazionamento, insomma, una delle stazioni di sosta delle navi che andavano dall'Africa occidentale fino al Brasile. Il prossimo brano è in qualche modo un po' un intermezzo che ho deciso di mettere, che è sempre di questi brani, perché non è un brano tradizionale, ma un brano che si ispira a vari tipi di musiche tradizionali, e non solo, perché questo è un compositore capoverdiano che si chiama Vasco Martins, che fra l'altro ha studiato anche con quel Fernão López Graça, che abbiamo visto uno dei protagonisti nella riscoperta della musica tradizionale portoghese. E questo musicista, che poi ha fatto anche molti brani per strumenti di musica elettronica, anche con sintetizzatori, in questo piccolo brano particolare che si chiama Situações Triangulares per Violão, praticamente mette un po' assieme sia qualcosa preso dal fado portoghese, qualcosa dalla valsa capoverdiana e anche alcuni elementi della sonorità tipici della musica brasiliana. È proprio un brano molto, molto corto, dura 1:43, dà un po' un'idea magari di una visione diversa di sintesi da parte di un compositore. Thank you. e dalla tradizione di musica, insomma, musica scritta, di composizione, proprio ai vecchi canti di lavoro, insomma, ormai di lavori ormai in via di sparizione. E questo colaboi, questo canto di travaglio di lavori Capoverde è proprio l'accompagnamento dei buoi nell'aratura, insomma. È appunto una registrazione sul campo di Santo Antao. Cioè, fammi capire, accompagniamo i buoi con la chitarra mentre pascolavano? No, questo è quello che abbiamo ascoltato prima. Ah, ecco. No, quello che abbiamo ascoltato prima era una valsa appunto ispirata di questo Vasco Martins, ispirata alle tradizioni del fado portoghese, la musica brasiliana e della valsa appunto di Capoverde. Adesso invece proprio andiamo in campagna un po' a sentire com'era questa musica di lavoro. Onandere legno puff la boia puboi la boia che mi andete vendere la canum somma la ne voler soglio metist come io che il vendirino ti ho perdito l'arbas la mia come di qualcosa vendirino signor soglio metist. Corda bubile, la sogno corda bubile che cresce bisogno di boie dos, la vostra mondo ne plombe tana, vostra calza spore di metà bronc. Vostra calza spore di metà bronc, vostra mondo ne plombe tana. La pnove schivra pombobo in a banca di rie. Pombobo, la voglia gno pop, si demo un consolans, che mi deleva me me porbir. La voglia son giunti loc ti loc, la sa signora di ghieta compagnol. La mia bene che mi chiamdi da beppo di io son per una garza. Di beppo di io son per una garza. La che conosce che brella no bocca dormire un gris. La son per corda bubile. Son per una garza. La nova che dormirò in grigio che non ti deve scrivere. La voglia gno pop di loc, che mi giambè gne chemi. La mi devo si già flessida di... È sempre Etno Chic e ci stiamo avvivando piano piano verso la chiusura. E... Sì, qua sì, qua si riconoscono canti di pastorizia. Sì. O di transumanza. Sì, sì. Eh sì, perché insomma, ci stavo insomma, a sentire che non è solo una tradizione, come dire, di canti, di musiche strumentali, ma c'era chiaramente anche la tradizione legata poi ai momenti della vita di tutti i giorni, anche dal punto di vista lavorativo. Per chiudere sentiremo il primo esempio è di questo Umbertone che ci suona questa morna Casurdor. E appunto torniamo a sentire una morna, che è questo canto lirico tipico di Capoverde. E poi thank you. E chiedo bene a tutti, scusatemi, ma non è partita una morna di Umbertone, ma una mascrigna, quindi un'altra danza strumentale, e va bene comunque così, perché abbiamo ascoltato un'altra ennesima forma musicale, genere musicale piuttosto diffuso. Ma sono tutti generi di importazione portoghese? No, no, alcuni sono proprio, come dire, che sono nati qui, come per esempio la morna e il fanana, sono tutte locali in realtà. Cioè l'unica che abbiamo visto di importazione è la mazurka. Cioè sono dei grossi sincretismi, non lo so. Sì, sì, esatto, sì, sono sì, delle grandi sincretismi, sì. Esatto, perché comunque nel corso dei secoli, con tutte, poi essendo appunto Capoverde in mezzo a queste rotte così... tra il Portogallo, il Brasile, l'Africa, ha preso un po' da tutti e in qualche modo... donato anche un po' da tutti. E sì, poi. Anche perché, come giustamente ne parlavamo fuori onda, non è tuttora Capoverde, non sono un arcipelago di isole molto popolato e soprattutto è questa popolazione comunque... è avvenuta nel corso dei secoli, perché inizialmente le isole erano quasi disabitate, quindi comunque la popolazione è stato un percorso di secoli, insomma, sia di popolazione di queste isole, sia di formazione di questa cultura a strati, insomma, si può dire. E chiudiamo proprio con Cesare Evora, che è un po' il personaggio più conosciuto, insomma, nella musica capoverdiana nel mondo, insomma, emersa anche lei abbastanza tardi, dopo che comunque era già abbastanza conosciuta nel suo paese, è stata, come dire, scoperta nell'onda, nella voga della world music degli anni 90, 80-90, e qui l'ascoltiamo proprio un brano che si chiama Cincirotte. E con questo mi sa che salutiamo tutti quanti. E con questo anche vi salutiamo, perché sono le 22:25, quindi preferiamo non tagliare Cesarea Evora e darvi appuntamento al prossimo mercoledì. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Já menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. Esboa fama, tudo alguém já tá com cheio. Esboca grande e raganhão, bota papia mais que ninguém. Já menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. Esboa fama, tudo alguém já tá com cheio. Esboca grande já ganhou, bota papinha mais que ninguém. Mas flá do flá, minha boca castala. Na minha porta nunca criei o diabo, me mantenha camuflar. Mas flá do flá, minha boca castala. Na minha porta nunca criei o diabo, me mantenha camuflar. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Doce boquei na voz mira. Aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Mas flá do flá, minha boca castala. Na minha porta nunca criou diabo, me mantenha cabo flá. Mas flá do flá, minha boca castala. Na minha porta nunca criou diabo, me mantenha cabo flá. Se boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, um teme de tribunal. Se boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, um teme de tribunal. Mas flá do flá,